Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Quando ha deciso di infiltrarsi nei gruppi più estremisti, ha imparato l'arabo, si è convertito alla religione del profeta e ha accettato anche di circoncidersi. E allora smesse le vesti del giornalista spagnolo. Per 6 anni è stato solo Muhammad Abdallah Abu Ayman, nato in Sud America per volere della diaspora palestinese e pronto a diventare mujahid per vendetta. Di sicuro, per 6 lunghi anni, è stato tra Palestina, Siria, Libano, Egitto, tra gli estremisti della Jihad e le scuole coraniche, tra Hamas e Al-Fatah. Poi, per raccontare quello che da dentro aveva visto, si è trasformato ancora una volta e stavolta è diventato Antonio Salas, nome di comodo con cui firma il suo ultimo libro inchiesta, L'Infiltrato, appunto, edito in Italia da Newton Compton. Ripercorre i suoi viaggi questo giornalista molto particolare, descrive i meccanismi e gli equilibri dei gruppi estremisti e soprattutto smonta con la cronaca dei fatti certi pregiudizi, come quando scoprì, come racconta ora a Storiacce, che l'ex leader delle Brigate Martiri di Al-Aqsa, uno dei gruppi più temuti dello jihadismo, era cristiano. Glielo raccontò lo stesso Ayman Abu Aita in un colloquio a Betlemme. Per Antonio Salas, che il mestiere del giornalista l'ha sempre fatto negli ambienti più off-limits, tutto cominciò quando Madrid fu devastata dalle bombe di Al-Qaeda. Allora decise di infiltrarsi nel mondo della jihad, dopo essere già stato tra i narcotrafficanti e all'interno del racket delle prostitute. Salas risponde a Storiacce da un cellulare dove la voce, per ragioni di sicurezza, è sempre criptata. L'investigazione iniziò il 11 di marzo dell'anno 2004. È cominciata l'11 marzo con l'attentato di Madrid. Prima avevo già fatto una missione sotto copertura, infiltrato nella tratta delle donne. E a partire da lì è cominciata la mia inchiesta, che ha richiesto molto tempo. Prima di tutto, per capire l'identità di Mohammed Attal, l'attentatore dell'11 settembre. Da allora ho cominciato a studiare molto l'Islam, il terrorismo. In quegli anni ho praticamente conosciuto quasi tutti i gruppi di terrorismo internazionale, come l'ETA basca, gli Hezbollah libanesi, Hamas palestinese, i gruppi dell'America Latina, i colombiani. È stata un'investigazione molto ampia e complicata. Col nome di Abdallah Ayman, lei è stato a lungo nelle scuole islamiche e ha vissuto in Medio Oriente. Com'è andata? Qual è stata la sua scoperta principale di quel mondo visto dall'interno? È molto difficile conoscere e capire il Medio Oriente per un occidentale, ma è molto interessante poter conversare con una famiglia del posto su come loro vedono i cristiani e gli occidentali in generale, per non commettere gli stessi errori e cadere negli stessi pregiudizi. Io pensavo, come molti europei, che tutti gli arabi fossero musulmani e tutti i musulmani fossero terroristi. È come pensare che tutti gli occidentali siano cattolici. Ci sono stati pregiudizi di cui doversi liberare per poter comprendere appieno un mondo così diverso. Io non ho incontrato fanatici, né visitando le moschee, bisogna pensare a luoghi di estremismo. Però è vero che anche lì, poiché c'è una crisi delle vocazioni, potremmo dire, arruolano chiunque. A me hanno finanche chiesto di diventare imam. Secondo lei, la morte di Bin Laden ha cambiato qualcosa negli equilibri del terrorismo islamico? Ha percepito qualcosa? È presto per dirlo. Speriamo solo che la sua uccisione distolga gli aspiranti emuli dal ricalcare le sue tracce. È l'umiliazione il più delle volte ad alimentare la vendetta. Ad esempio, il massacratore di Marines, il cecchino di Baghdad, Giuba, è stato mitizzato come una specie di Rambo iracheno. Com'è stata la sua vita di occidentale al servizio però della jihad islamica? Il concetto di jihad è molto complesso. Esistono 2 jihad, il grande jihad e il piccolo jihad, secondo il Corano. Jihad significa solamente sforzo. È lo sforzo che rende il musulmano obbediente, lo rende capace di essere obbediente ai precetti del Corano. E questa è una cosa molto difficile ai tempi nostri, così come è difficile essere un buon cristiano. Ubbidire ai 10 comandamenti della Bibbia è veramente molto difficile. Nel nostro mondo, non mentire, non desiderare la donna o il marito del prossimo, onorare le festività, insomma, non è facile essere un buon cristiano e allo stesso modo non è facile essere un buon musulmano. E questo è il grande jihad, lo sforzo giornaliero che bisogna fare per esserlo. Il piccolo jihad è la lotta armata, che esiste veramente in alcuni paesi. Ma a questo proposito c'è un problema di percezione, perché in alcuni paesi, come per esempio l'Iraq o la Palestina, esistono gruppi armati musulmani della resistenza, ma allo stesso tempo esistono gruppi armati arabi che non sono musulmani. E questa è una delle prime grandi sorprese che ho avuto. Per esempio, io mi sono molto meravigliato di incontrare in Palestina personaggi come Ayman Abu Aita, che era il leader delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, conosciuti a Betlemme, vicino a Gerusalemme, e dopo aver conversato a lungo con Ayman, gli chiesi se potevamo andare insieme alla moschea. Lui mi rispose che non andava alla moschea, perché era cristiano. E molti membri delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, che sono palestinesi di razza araba, erano cristiani. Durante quei mesi da infiltrato, le è mai capitato di sentir parlare dell'organizzazione di attacchi? Ha mai sentito citare l'Italia tra i possibili obiettivi? Ovviamente tutti i paesi europei che hanno partecipato e appoggiato gli Stati Uniti nell'occupazione dell'Iraq sono nel mirino dell'organizzazione jihadista. Io ho incontrato per esempio 8 agenti del servizio segreto italiano nei corsi di formazione intensivi di lingua araba del Nord Africa, nello stesso istituto frequentato da molti membri di forze di sicurezza o membri dei servizi di intelligence o di giornalisti, come me, impegnati a imparare l'arabo dopo gli attentati dell'11 marzo o dell'attentato a Londra. E questo perché logicamente Italia, Francia, Inghilterra o Germania o qualunque altro paese che abbia partecipato all'occupazione in Iraq è nel mirino delle organizzazioni jihadiste come Al-Qaeda. Salas, lei non ha mai temuto di essere scoperto? Ho rischiato di far saltare la mia copertura tra gli Hezbollah libanesi o nei campi scuola venezuelani. In realtà, chi poi davvero stava per scoprirmi era un giornalista americano che sa tutto di Medio Oriente. Quando gli ho raccontato la mia storia, o meglio, la storia del mio personaggio, cioè che avevo una moglie morta in un villaggio sperduto della Palestina e che per questo mi ero votato alla Jihad, ha esclamato e detto: ma so tutto. Io allora ho fatto di tutto per sviare il discorso. Un'ultima curiosità. Come ha fatto anche fisicamente a mimetizzarsi con i palestinesi? La barba e litri di succo di carote. Scurisce la pelle. Nei suoi 6 anni da infiltrato, Abdallah Abu Ayman, ossia Antonio Salas, nome di copertura di questo giornalista spagnolo diventato finto aspirante jihadista, ha conosciuto anche Carlos, lo sciacallo, il più famoso terrorista del XX secolo, un nome ben noto anche alle inchieste italiane degli anni più bui e più volte è riemerso nelle indagini sulla strage alla stazione di Bologna. Ogni tanto, infatti, Ilich Ramirez Sanchez, nome di Carlos, appunto, annuncia di voler parlare e voler riferire quello che sa sulle trame e i misteri nascosti dietro il più grave attentato in tempo di pace, la bomba che il 2 agosto del 1980 uccise 85 persone e ne ferì altre 200. Più volte percorsa e altrettante accantonata, una volta che sentenze ormai definitive hanno indicato gli ex NAR, Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, quali esecutori materiali della strage, la pista di Carlos e dell'ipotetica ritorsione palestinese è di nuovo battuta dai magistrati bolognesi. Nelle settimane scorse sono stati infatti indagati i terroristi tedeschi Thomas Kram, 63 anni, e Margot Frohlich, di 69, legati al gruppo internazionale di Carlos, che è in carcere a Parigi. Aperto nel 2006 sulla base di documenti della commissione Mitrokhin, il fascicolo si sviluppa intorno all'ipotesi che la bomba sia stata messa dal Fronte di Liberazione per la Palestina come ritorsione per l'arresto da parte dell'Italia di uno dei suoi massimi dirigenti. Una tesi questa che gli imputati, condannati, Fioravanti e Mambro, in realtà hanno sempre ripetuto, appoggiati anche da molti uomini politici, in particolare di centrodestra. Una pista che ora, appunto, i magistrati bolognesi tornano a percorrere. E nel suo libro Inchiesta, l'infiltrato, Salas racconta di come si è diventato il webmaster di Carlos e di come abbia conosciuto gli amici e anche i parenti stretti dello sciacallo, come il fratello e la mamma. Fu lo stesso Carlos, scrive Salas, a chiedermi di raccogliere la testimonianza di chi gli aveva dato la luce. E la mamma mi riferì dei racconti di Carlos, scrive Salas, sulla sofferenza del popolo palestinese e sul fatto che lui voleva fare qualcosa per loro. E Salas ha avuto anche la possibilità di sfogliare e custodire l'archivio di Carlos, uno dei più temuti terroristi internazionali, di cui ora dunque anche l'Italia torna a parlare. E termina qui anche questa puntata di Storiacce, che anche ad agosto ha continuato ad approfondire inchieste, incontrare personaggi di vario tipo e farvi conoscere nuove storie. Insomma, in realtà possiamo dire che non siamo andati molto in vacanza. Ma come sempre vi ricordo che potete scaricare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce in onda ormai da 5 anni, dal sito www.radio24.it, dalla sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Storiacce anche un blog, anzi un audioblog, e poi una pagina Facebook. Cercateci sul sito di Radio 24 e scriveteci via Facebook oppure via mail. Scriveteci le vostre opinioni, i vostri commenti, ma mandateci anche le vostre segnalazioni se conoscete storie o storiacce che volete sottoporci, così che in autunno possiamo parlare anche di vicende che partono direttamente da voi. Ciao a tutti da Raffaella Calandra. A sabato prossimo.